siamo l'aria di chi vive a caso, l'aria di quelli che paghi a peso, e abbiamo scuse che anche se buone non c'è nessuno che le ascolterà. E poi abbiamo già chi ci porta fino alla prossima città, ci mette davanti a un altro microfono che qualche cosa succederà. Siamo qui di là, siamo qui di là, siamo qui di là, quelli tra palco e realtà. Che neanche sappiamo, e finché va bene ci leccano il culo, e poi abbiamo casse di malos per pettinarci lo stomaco. Abbiamo soldi da giustificare e i complimenti per la trasmissione, e abbiamo un ego da far vedere ad uno bravo davvero un bel po'. E poi abbiamo chi ci dà il voto, ci può spiegare come si fa, e come prima no si è montato, ognuno sceglie la tua verità. Noi siamo quelli là, siamo quelli là, siamo quelli là, quelli tra palco e realtà. C'è chi non si sbaglia ma ti guarda e sa chi sei, e c'è chi non controlla mai dietro la foto, e c'è chi non ha avuto mai nemmeno un dubbio, mai nemmeno un cazzo di dubbio mai. Sconti che quando è l'ora si saluterà, e ce l'abbiamo qualche speranza, forse qualcuno ci ricorderà, non solamente per le canzoni, per le parole o la musica. Noi siamo quelli là, siamo quelli là, siamo questi qua.